Rock FM. Rock FM. Rock FM. Rock. Rock FM. Now you feel that I love, that I do you. Abbiamo ritrovato quest'oggi una bellissima canzone degli Aerosmith con la loro Angel. A proposito, Steven Tyler è entrato volontariamente presso una clinica specializzata in disintossicazione. Questa è una notizia che già circolava diversi giorni fa, però è stata confermata proprio, se non sbaglio, ieri o l'altro ieri. E come Courtney Love entra ogni tanto a farsi un giro, a salutare così vecchi amici. Però pare che abbia ripreso così con alcuni vecchi vizi. Però giustamente, avendo anche una certa età, ha detto: ma cosa sto facendo? Entro in clinica da solo e lì ci rimango per un bel po'. E noi ovviamente siamo con lui virtualmente e pensiamo tanto ad un uomo fantastico, ovvero Steven Tyler. Grande, un bacione ad Andrea, dice: sei una vipera, ma vantatene, meglio vipera ha ragione che ipocrita. Sì, assolutamente sì. Saluto anche la Lu, dice: ciao tesoro, immagino che fa, quanto è bello. È molto bello, bellissimo. In questo momento sta dormendo. Ogni tanto si sveglia, così mi guarda come per dire: ah, ok, sei qui vicino a me, e torna a dormire, fortunatamente. Dice: ma il 30 lo porti? Non lo so, perché ci saranno talmente tanti ospiti. Lui è un cucciolo, è piccolissimo, quindi non lo so. Poi tutti quelli che stanno passando in radio in questi giorni si sono innamorati di lui, giustamente, ci giocano una cosa quell'altra. Lui gioca, sì sì, molto volentieri. Poi ogni tanto scappa, si imbosca negli angoli, no? Quelli in cui non dovrebbe andare, perché ci sono tutti i cavi, tutte le cose dei computer. Lui sta in questo angolo, ti guarda con una faccia come per dire: dai stronzo, vienimi a prendere adesso, eh? E allora l'anziana si deve piegare con tutti gli acciacchi, la schiena bloccata, e andare a recuperare il piccolo Gino, che ti guarda con questo faccino come per dire: tiè, ti sta proprio bene. Ma è bello così. Saluto Lele, un bacione grande grande. Boris the Spider dice: ma ci sarai a Modena il 14 giugno per il Rage Against the Machine? Penso proprio di sì. Penso. Saluto anche Glemi, dice: ma ti ho raccontato di quando ho avuto l'onore di conoscere, parlare e mangiare la pizza con Nick Cave? No, non lo sapevo. Che bello però. Dice: tra una settimana andrò al suo concerto a Firenze e spero tanto di avere la possibilità di rincontrarlo. Ma perché no? E dice: ho tanta malinconia, perché prima, quando hai detto che oggi è l'ultimo venerdì normale di trasmissione, mi hai preso un magone tremendo. Sono furiosa. Siamo in due. Anzi, forse qualcosina in più. Eh sì. Saluto anche il Joker del database, un bacione. Saluto anche Max the Diver. E arrivano, ecco, quando leggo queste mail sono veramente di ringraziamento, provi un piacere infinito, perché sono delle mail bellissime, però ti fanno veramente scattare la lacrima e commuovono. Grazie Max the Diver, grazie a te. Intanto continuiamo con il Radiohead, che, come ben sapete, insomma, hanno un po' segnato la storia con il fatto di pubblicare Non mi svegliare il cane di Ryu, non svegliare il cane che dorme, eh? Però poi te lo mando sotto la tua scrivania a lasciare diversi ricordini. Stavo dicendo, Radiohead insomma hanno pubblicato in Rainbows il loro ultimo album, come ben sapete, online, facendo decidere al pubblico quanto pagare. E alla fine hanno avuto un grandissimo successo. Arriveranno nel mese di giugno, sold out, bla bla bla, ormai lo sappiamo benissimo. Li ascoltiamo con Jigsaw Falling Into Pieces. is sparkle and the before I lose control. There's just one thing you should know. Questa era This Is For Real, 13:21 di già, mamma mia. Pensavo fosse tipo mezzogiorno, invece no, stordita. Saluto Francesca, dice: perché le donne si dice sempre vipere o acide quando dicono le cose che pensano senza mezza parole, e agli uomini invece si dice che sono sinceri? È una vecchia storia. Ma no, guarda Francesca, prima l'ascoltatore che mi aveva scritto quella mail lo diceva in senso buono, mi diceva: sei una vipera, vantatene, meglio vipera appunto che ipocrita. Quindi era assolutamente una cosa positiva, cara Francesca, non ti preoccupare. Comunque grazie per la difesa. Che carina. Saluto anche, mamma mia quanti messaggi quest'oggi. Fungo 77 dice: ma cacchio, sono tutte ste persone che ti scrivono da Imola e non conosco? Vuol dire che sto invecchiando? Ma no, ma assolutamente no. E essendo l'ultima tua giornata normale, ho deciso di ringraziarti adesso. Anzi no, manderò a voi tutti un'email tra qualche giorno, molto meglio di un SMS. Saluto anche Toma, dice: a domani, a che ora? Al Gens? E poi chi fa il DJ set? Penso i ragazzi, quindi insomma la serata sarà in compagnia totale della Rock FM All Stars Band. Glemi dice: ma dopo il 31 che fine farà Gino? Ma Gino starà in ottime mani dopo il 31. Assolutamente. Sarà un po' nel mio giardino, sarà un po' dai suoi padroni, ovviamente. Bello come il sole. Max Maggi dice: cominciano le prime lacrime perché vi amo tutti. No, aspetta. Ne avrai di tempo per piangere tra una settimana, tranquillo. Saluto anche la Scuta Sister numero uno, buon weekend anche a te, cara. Mi dispiace, ma noi rocker abbiamo perso. Nuts Rock. No, non siamo noi, no, non so se ti stai riferendo alla chiusura della radio, ma credimi, non siamo noi che abbiamo perso, assolutamente. Saluto anche Mario, dice: allora, anche oggi piove e non ho intenzione di smettere. Beh, qui a Milano devo dire che per il momento sta ancora reggendo, il tempo c'è il sole. Basta, piove da quando avete dato la notizia che chiudete, ma dal primo giugno cosa succederà? niente, Rock FM per noi smette di esistere il 31 maggio e poi comunque si va avanti. Per il momento si terranno i contatti tramite il nostro sito rockfamily.it e poi non lo so cosa succede. Vorrei dirti qualcosa di concreto, ma in questo momento non lo so. Giulio 65, questa settimana sembra l'agonizzante concretizzazione di un incubo. La vostra chiusura è una ferita che speriamo si rimarginerà. Speriamo. Scis da Firenze, grandi Boston, un saluto a te Claudio, sto bevendo un buon rosso e oltre che sentirti mi pare di vederti, per forza. Continui a bere e mi vedrai sicuramente. Un saluto anche al Notturno, Fra da Firenze. Poi, mamma mia, quanti messaggi, magari adesso facciamo ascoltare una canzone e poi continuiamo con i saluti, sennò non la smetto più. Parliamo anche dei Primal Scream. Attenzione, attenzione, il 21 luglio, che è anche il compleanno di Max De Rio, poi andranno con un nuovo album, Beautiful Future. Speriamo. Questo è il titolo del nuovo album dei Primal Scream che ascoltiamo con Rox. Ricordo allora che il 21 luglio uscirà il nuovo album dei Primal Scream intitolato Beautiful Future. Per loro, sicuramente per noi un po' meno. Ci saranno un sacco di collaborazioni. Se non sbaglio anche qualcosa con Josh Homme dei Queens of the Stone Age. Il primo singolo, Can Go Back, uscirà il 14 luglio e poi dopo pochi giorni anche l'album. Per il momento non si parla di tour, però sicuramente, cioè, ma arriveranno. Intanto saluto Ale, ma Ale tu mi chiedi Club Dogo. Non sono molto da Rock FM, per quanto comunque nel loro genere siano molto bravi, ma non c'entrano molto con la nostra radio. O il titolo di una canzone, non so, in questo momento mi viene in mente la band. Caro. Saluto. Chiesto pazzo, dice, rappare su Sad But True dei Metallica in questo modo è un sacrilegio. Chi è sto pazzo? Era Kid Rock con American Badass, però i Metallica gli hanno dato l'approvazione, ovviamente in cambio di molti soldi, quindi saluto anche alle C, dice, se tutte le vipere fossero come te, viene tanto la voglia di dire viva le vipere. Saluto anche Lorenzo. È vero, io intanto ho la O un po'. Sbaglio, vabbè. Ci vediamo il primo alla vlog, assolutamente sì. Saluto anche Bonnie. Mi dice, fammi capire Claudio, è l'ultima volta che ti scrivo in un palinsesto canonico? Occhi gonfi. Eh sì, caro Bonnie, mi sa di sì. Perché poi con la storia anche degli ospiti, settimana prossima, non sappiamo esattamente che orari faremo, anche perché ad esempio io ci tengo in particolare ad essere con alcuni ospiti ci tengono in particolare a non essere con me, no scherzo, però vediamo, comunque è un po' una sorpresa anche questa, non vogliamo dire più di tanto. Saluto anche Omar, l'edicolaro metallaro, grande, dice voglio solo ringraziarti per la carica che mi hai dato in tutti questi anni. Saluto Walter, dice dal 1993 che siete la colonna sonora di Rebel Art, il mio primo negozio. Aiuto, arrivano talmente tanti messaggi che automaticamente poi li perdo, aiuto. Il primo negozio di disegni con aerografo nato a Milano e senza scherzi sono distrutto al pensiero che non saprò cosa ascoltare. Poi elenca un paio di radio seguiti da alcuni commenti, va. No dai, Walter. Guarda, molti nostri ascoltatori stanno facendo delle cassette, dei CD. Quindi se riesci ad attrezzarti così. Saluto anche Meriche o Meriche. Come facciamo a giugno? Ci dici dove trovarti? Guarda, non lo so. Non lo sappiamo. Rockfamily.it, lì sicuramente nei prossimi mesi, nelle prossime settimane vi racconteremo quello che sta succedendo nella nostra vita e insomma tutto quello, quelle che saranno le novità. Speriamo di avervi di avere delle cose simpatiche da raccontare. Intanto vi lascio con i White Stripes, ce li riascoltiamo quest'oggi con Conquest.